Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Mattino. Buongiorno, Claudio da Prato, autista della Hub. I 15 minuti, ma regola in città file non ci sono mai, altro che 15 minuti. Ma come la mettiamo con la scuola, soprattutto quella dei piccoli, che si ammalano tanto spesso? Nel caso in cui in classe si verifichi, come si verificherà sicuramente, dei casi di malattia, ma che possono tranquillamente essere non Covid, verrà chiusa tutta la classe e verranno quarantenati tutti i bambini? Ieri ci sono stati, mi sembra, 4 morti in mare, prima con un morto, che è già un morto di troppo, vesti stracciate, pagine di giornali. Quando c'era Salvini ministro dell'interno, com'è che quasi oggi quasi non si dice nulla, e se proprio questa notizia la si dà in maniera sfuggente. Le 7:18 minuti di questo martedì 1 settembre è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Sulla questione della malattia dei bambini, in tutta teoria, se tuo figlio sta male, lo devi tenere a casa. Punto. Se ha dei sintomi, lo devi tenere a casa. Punto. Poi cosa succede dopo? Se lo tieni a casa, si ipotizza che gli altri non siano contagiati e poi si vede. È chiaro che si va un po' a tentoni, Non è... Non ci può essere nulla di definitivo, di chiarito fino in fondo. Ci possono essere delle indicazioni di massima e che dipenderanno dalle singole scuole, anche da come sono fatte, perché ogni scuola è diversa anche dal punto di vista dell'edificio, di come è fatto, di come è costruito, delle sue parti. La questione dei 15 minuti a capienza piena, che le devo dire, ha perfettamente ragione. Sull'ultimo punto dell'ascoltatore che polemizza chiaramente dicendo: quando c'era Salvini la sinistra faceva molta confusione, molto rumore nel caso anche di un solo morto in mare. Ieri ce ne sono stati 4. E ha perfettamente ragione. Di fatto oggi ne troviamo traccia solamente su Avvenire, che in prima pagina mette una foto. 3 vittime, un disperso, diversi feriti. Parliamo dell'esplosione, naturalmente. E sottolinea Avvenire anche l'odio social che si è generato quando si è parlato di questa notizia sui siti e sui social dei giornali, con alcuni che ridevano, che mettevano, no, scrivevano ha ha ha ha ha, così, sotto la notizia di 3 morti in un'esplosione. Così è. Sempre 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, per le vostre voci, anche per gli SMS, i messaggi WhatsApp scritti. Al microfono sempre Simone Spezia. E la rassegna stampa, come sempre, parte da un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani che in parte si concentrano sulla questione della scuola. Un via la mascherina in aula sulla Repubblica, un scuola patto per riaprire sul Corriere della Sera, un scuola il rinvio delle regioni, ne abbiamo parlato ieri, il Messaggero questo. Un Azzolina, tutti in classe senza le mascherine, il titolo della stampa. Va giù dura la verità, il conto del disastro scuola lo fanno pagare alle famiglie. Lazzolini ha scaricato la responsabilità sulle spalle dei presidi che ora pretendono l'autocertificazione dei genitori. Sali a bordo è il titolo del manifesto sulla capienza dei mezzi. Il Fatto Quotidiano si dedica al referendum, facendoci sapere che si preparano a tagliare i parlamentari anche Gran Bretagna, Germania e Francia. Il Giornale sul fronte economico, meno 12,8%, che botta il dato sul prodotto interno lordo. Il Quotidiano Nazionale su quella che definisce la beffa dei bonus per auto e bici. Le risorse sono poche, oggi ci sarà la corsa per ottenere quelle riservate alle vetture. Per i ciclisti ancora incertezza. Il Sole 24 Ore verso il rinvio bis per 9 milioni di cartelle. Questo interessa un sacco di gente, eh? 9 cartelle esattoriali su 10 di quelle sospese fino al 15 ottobre sono inferiori ai 5.000 euro di debito e solo nel 36% dei casi si tratta di tasse non pagate. Sono i dati dell'Agenzia delle Entrate e si prospetta un nuovo rinvio. A proposito di operazioni economiche, operazioni di mercato, l'apertura della Gazzetta è su Vidal che dice sì all'Inter. Pronto un biennale, gli agenti del cileno trattano con il Barça per accelerare la risoluzione del contratto. Ed eccoci, come sempre in questa parte iniziamo da qualcosa di un po' diverso. E oggi a stuzzicarmi è stato il Messaggero, perché ha parecchie cose interessanti, a partire da una vicenda che direi che è quasi tipicamente romana, una delle tante storie che hanno a che fare con la capitale e che ci è capitato di raccontare negli anni. Siamo a pagina 11 e Lorenzo De Cicco fa partire il suo servizio raccontando cosa è successo nelle ultime ore. Dietro Piazza del Popolo un tronco ha centrato in pieno due macchine parcheggiate. In via Capodistria, accanto a Villa Torlonia, il fusto di un platano si è appoggiato, così annotano i vigili del fuoco, sul tetto di una palazzina. La Nomentana, arteria di grande scorrimento, ieri è stata chiusa in un tratto dalla polizia municipale per colpa degli alberi pericolanti. È il bollettino delle ultime 48 ore. Ma qual è il punto? È che metà dei giardinieri di Roma Capitale è esentato dalla potatura e quindi fanno parte del servizio giardini. Sono là dentro, ma questo ruolo, il ruolo centrale che è quello di mantenimento del verde pubblico, non lo svolgono. I crolli in sequenza degli ultimi 4 anni svelano di fatto le falle di una manutenzione, racconta Lorenzo De Cicco, che viaggia al rallentatore. Nonostante l'urgenza, gli appalti rimangono impaludati nella motriglia della burocrazia per mesi, a volte per anni, tra errori di calcolo nei fogli Excel, è successo anche questo, e dirigenti in fuga dalle commissioni di gara. Ma alla base dello sfascio c'è anche un altro aspetto. Le truppe che dovrebbero andare alla guerra contro i fusti pencolanti sono gonfiate. I giardinieri effettivi, per farla breve, sono molti meno di quelli annotati negli organici del Campidoglio. E allora facciamo i conti. Sarebbero 395 i dipendenti del Servizio Giardini di Roma, ma ecco la prima sforbiciata. 97 sono dipendenti di categoria C. Insomma, svolgono funzioni di coordinamento o mansioni d'ufficio, quindi un quarto del personale, il 25% svolge del servizio giardini di Roma, svolge mansioni d'ufficio. 2 dipendenti fanno parte di categorie protette, in 60 hanno minori aggravi, in alcuni casi l'invalidità è del 10%. Tra i dipendenti considerati non operativi c'è chi ha informato i superiori di prendere psicofarmaci e tranquillanti o di avere un passato da tossicodipendente. Risultato: oltre il 40% dei giardinieri comunali non tocca un albero. Succede a Roma. Succede a Bolzano invece una questione che rischia di attizzare vecchie e nuove polemiche. Ce la racconta sempre il Messaggero e siamo con Federico Guiglia a pagina 13, il quale ci parla di questa polemica partita ieri appunto da Bolzano. all'apparenza è solo un innocuo emendamento. Recita così: per il territorio della provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua tedesca costituisce requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. Ma, a parte le fastidiose ripetizioni nel testo, l'effetto delle parole è dirompente. Significa che, per fare i medici o gli infermieri in una parte della Repubblica Italiana, si può fare a meno dell'italiano. Tradotto dal politichese, un medico austriaco straniero parlante tedesco potrebbe iscriversi all'ordine dei medici di Bolzano senza conoscere una sola parola della lingua di Dante, che è oltretutto l'unica lingua ufficiale della nazione e della quale diverse recenti sentenze della Corte Costituzionale hanno riaffermato il ruolo insostituibile, anzi di primazia, che vale due volte in Alto Adige, dove vige l'obbligo del bilinguismo italiano-tedesco. Ma in caso di dubbio interpretativo delle leggi, chiarisce lo stesso Statuto Speciale di Autonomia, fa testo la lingua italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. E l'eventuale novità, che non è stata ancora approvata naturalmente, è contenuta nel decreto semplificazioni in un passaggio proposto dalla senatrice Julia Unterberger e approvato a Palazzo Madama dalle commissioni riunite prima e ottava. Quindi attenzione, non è una mossa autonomista della provincia autonoma di Bolzano che si è mossa da sola, è un emendamento al decreto semplificazioni che è stato approvato dai parlamentari della Repubblica Italiana. Ci sarà di che discutere. A proposito di provvedimenti del governo, c'è questa apertura che vi segnalavo, così poi piano piano ci spostiamo su tutta la questione Covid, andremo anche alla questione scuola naturalmente, alla questione migranti e anche a un po' di politica ovviamente. E poi ci sono tanti altri elementi, in questa rassegna abbiamo pescato parecchia roba oggi. Quotidiano Nazionale a pagina 9 ci porta su quello che è il problema del bonus, dei vari bonus che sono stati varati dall'esecutivo per Covid-19 e che rischiano di scontrarsi con una questione risorse che non bastano per tutti. Già ieri lo segnalava Maurizio Caprino sul Sole 24 Ore del lunedì, ci torna oggi appunto il Quotidiano Nazionale con Achille Perego. Dalle 2 alle 4 ruote, i bonus del governo per migliorare l'insegna della volta green, la mobilità e spingere i consumi nella stagione del coronavirus rischiano di lasciare a bocca asciutta migliaia di italiani o costringerli a una corsa da click day per non restare esclusi, terminati i fondi dagli incentivi. Fondi che invece, sono dati alle scorse ore, sono rimasti ampiamente non utilizzati per il bonus vacanze all'interno di una politica dei bonus a pioggia che, qua parla il presidente del Codacons Carlo Rienzi, sono un palliativo e non producono l'effetto sperato. L'incentivo da 50 milioni per l'acquisto di auto nuove, disponibile dal 1 agosto, è andato a ruba. Il decreto agosto ha raddoppiato a 100 milioni la dote, 300 per l'acquisto di vetture elettriche o ibride, e però appunto le risorse non sembrano bastare per tutti. Tra un attimo andiamo alla questione Covid, alla questione scuole, dove sulla quale ci sono una serie di spunti interessanti, e poi anche l'immigrazione. A tra poco. Mattino. Ma io sono sempre più stupito del fatto che in questo periodo di pandemia c'è una cosa che andava fatta e non è stata fatta. Prima si parlava di dare più soldi ai comuni per comprare gli scuolabus in legge di bilancio, ma ragazzi, la legge di bilancio la approveranno a ottobre-novembre. I comuni con questi soldi compreranno le cose, se va bene, febbraio-marzo. Qui bisogna azzerare i tempi della burocrazia, azzerarli, dare soldi subito, fare acquisti subito. Grazie all'ascoltatore. Sì, azzerare i tempi della burocrazia, ma non solamente per i comuni, per tutti. Ormai abbiamo imparato a lavorare digitale, molti di noi hanno imparato a lavorare digitale, hanno capito che si può fare, lo può fare anche la pubblica amministrazione. Si parta, si parta. Dunque, un po' di cronache, o meglio, di analisi, di letture sulla questione Covid, sulla ripresa delle attività. Da cosa partire? Guardate, partirei oggi non dalla scuola, ci arriviamo tra un attimo, ma dalla giustizia. Ci porta qua il quotidiano La Verità con Maurizio Tortorella, e a parlare è Gian Domenico Cagliazza, il presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Perché parliamo della giustizia? Perché non so se ve ne siete accorti, ma è ancora praticamente tutto fermo, quantomeno dal lato della giustizia penale. La giustizia civile è stata in parte aiutata dalla parte telematica. Per la parte della giustizia penale siamo ancora all'anno del mai. Appunto, a denunciarlo è proprio il presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, Gian Domenico Cagliazza. Le premesse della ripresa dell'attività giudiziaria sembrano replicare, se non peggiorare, quanto ci siamo appena lasciati alle spalle. Il sintomo più significativo è che si parli della ripresa di ogni possibile attività: scuola, discoteche, trasporti pubblici, alberghi, ristoranti, fuorché di quella giudiziaria. I segnali di aumento dei contagi preludono al peggio. Cagliazza dice anche che Bonafede, il ministro della giustizia, su questo fronte tace. Si stimava durante il lockdown che fossero stati rinviati a data da destinarsi 14.000 processi penali a Roma, 11.000 a Palermo, 10.000 a Napoli, 5.000 a Torino, 3.500 a Bologna. Molte udienze, si diceva allora, venivano fatte slittare anche più di un anno. A Milano, dove anche alcuni magistrati sono stati ricoverati per il coronavirus e dove a fine marzo il tribunale è andato parzialmente distrutto per un incendio che ha ridotto in cenere la cancelleria centrale dei giudici per le indagini preliminari, non risultano statistiche. Qua i penalisti attaccano duramente, perché già i processi italiani sono piuttosto lenti. Se ci mettiamo anche questi rinvii, il problema diventa ancora più grande. La questione della scuola, ne trovate traccia dappertutto, l'avete sentita in GR24, poi tra poco torneremo a parlarne. Questa regola dell'80%. 80% della capienza negli autobus, la questione soprattutto delle mascherine. Per darvi la misura di quanto la trattano i giornali, il Corriere della Sera ha 6 pagine sulla scuola, nelle quali mette dentro un po' di tutto, un po' di dettagli su quelle che sono le misure, e anche una serie di interviste a docenti di Milano, Torino, Firenze, Roma, Napoli, Palermo. Ognuno racconta come sarà il suo primo giorno di scuola, e viene riportata un po' da tutti i giornali anche la vicenda che vi abbiamo, della quale vi ho dato conto ieri, che abbiamo solamente il quotidiano e il giornale, che è la vicenda di Verbania. In isolamento professoressa e 6 studenti e lezioni bloccate in un istituto tecnico. Sulla questione della mascherina però c'è qualche perplessità sul fatto che la ministra insista e dica che non va messa, perché le solleva per esempio Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e medico di famiglia a Bari. In classe va portata sempre, dice, intervistato dalla Stampa a pagina 3, intervistato da Francesco Rigatelli: ci saranno altri malati gravi. Il coronavirus si sta diffondendo velocemente, ma il ritorno a scuola è una sfida che non si può perdere. La mascherina va portata il più possibile anche in classe. Distanze e igiene personale vanno fatte, rispettare severamente. Aggiunge Anelli che sarebbe utile fornire agli istituti dei termoscanner automatici, così da sgravare le famiglie da ogni responsabilità, e sui mezzi pubblici va garantito il distanziamento. Dunque servirebbe una riorganizzazione di traffico e orari, però tutto questo non ha senso se non si punta di più sull'educazione, ossia una grande operazione di spiegazione per sensibilizzare bambini e famiglie sull'utilità dei loro comportamenti. Così appunto Filippo Anelli, presidente nazionale dell'Ordine dei Medici. C'è da segnalare, sono pochi commenti oggi sul tema della scuola, se non quello in prima pagina, molto duro, di Alessandro Sallusti, dal suo punto di vista, il direttore del giornale, il quale, come dicevo appunto, è abbastanza duro in questo editoriale che si intitola Il distanziamento delle famiglie. Riunioni su riunioni, ordini e controordini, divergenze tra regioni e governo, professori e presidi in ordine sparso. Alla riapertura delle scuole si arriva tardi e male, dice Sallusti. La soluzione perfetta non esiste, ma l'assoluta mancanza di una leadership politica. Ma Conte dov'è finito? Sta provocando il caos che alla fine, scommettiamo, ricadrà sulle spalle non dei docenti, ma delle famiglie. E mette giù una serie di domande importanti Sallusti. La maggior parte dei genitori avrà entrambi, dei ragazzi dovrà, avrà entrambi i genitori al lavoro nel momento nel quale si dovesse scoprire una classe che deve andare in quarantena. I nonni non mi sembra il caso che li avvicinino. E allora che si farà? Chi pagherà i costi di un'assistenza forzata? Qua in parte la risposta è arrivata ieri, l'avete sentita dalla ministra delle pari opportunità Elena Bonetti, che è stata nostra ospite, ha detto: estenderemo i congedi in questo caso, vedremo se basterà. Le aziende dei genitori che perderanno il loro apporto, magari a singhiozzo. L'INPS che già arranca di suo, come ben noto. La famiglia stessa, come si comporteranno, che cosa dovranno fare. E poi sarebbe utile sapere se l'insegnamento è ancora un lavoro dipendente regolato da contratti e leggi o se per caso sta per diventare un hobby, nel senso che ogni insegnante potrà liberamente scegliere, in base ai suoi convincimenti e alle sue paure, se andare in classe o starsene a casa, che tanto lo stipendio arriva lo stesso. Così Sallusti, come si diceva, molto duro sulla scuola. Scuola che è uno, mi pare, dei tanti elementi che compongono il quadro politico di queste ore, anche le perplessità che vengono sollevate sulla situazione del governo. Situazione del governo, perplessità che Nicola Zingaretti cerca di fugare oggi, il segretario del Partito Democratico, lo fa con una lettera al quotidiano La Repubblica indirizzata al direttore. Caro direttore, dice, in queste settimane è cresciuta una critica molto forte e pretestuosa sulle difficoltà di trovare un equilibrio nei rapporti tra i PD, 5 Stelle e Italia Viva nel governo del paese. Avvertì subito la complessità di questa sfida unitaria, segnalai la necessità di una riflessione attenta e anche alcune preoccupazioni. Qual è la sostanza, stringendo, di questa lettera di Zingaretti? È riassunta nel titolo: PD e governo sotto attacco, sono stufo delle ipocrisie, chi vuole votare lo dica, chi vuole andare al voto lo dica. Intanto di voto si parla molto, ed è il voto ovviamente per le elezioni amministrative, per le elezioni amministrative e ovviamente per il referendum. Qua sulle elezioni amministrative abbiamo un sondaggio sul Sole 24 Ore realizzato dal professor Dalimonte, che dà un segnale forte al centrosinistra e dice questo: che in Toscana la partita è aperta. Stando al sondaggio realizzato da Dalimonte, Susanna Ceccardi, la candidata della Lega, sarebbe al 42,5%, mentre Eugenio Giani, il candidato del centrosinistra, sarebbe al 43%, li separa mezzo punto percentuale, mentre Irene Galletti, candidata del Movimento 5 Stelle, si attesterebbe all'8,3%. Ora, mi perdoneranno gli ascoltatori, ma dato che siamo in fase di par condicio, dovrò leggere la seguente dicitura per darvi la notizia di questo sondaggio, e dato che è espressamente richiesto da tutte le regole, vi dovrò dare anche lettura della parte burocratica di questo sondaggio, che è la seguente: il soggetto committente è il Sole 24 Ore, il soggetto realizzatore Wimpole Cise, il periodo di realizzazione delle interviste tra il 27 e il 28 agosto 2020. Il metodo è stato il metodo CAUI, 500 chiamate, numero di interviste 1500 chiamate, 2300 rifiuti, 2317 rifiuti, 500 CAUI, margine di errore con intervallo di confidenza al 99% al 2,4%, e così abbiamo assolto agli obblighi di legge che avevano a che fare con questo sondaggio, che indica, come vi dicevamo, uno scenario per certi versi inaspettato, ossia il fatto che la candidata della Lega potrebbe sopravanzare il candidato del centrosinistra in Toscana, dove sarebbe a tutti gli effetti una vera e propria rivoluzione. Sulla stessa pagina del Sole 24 Ore vi voglio segnalare, così andiamo all'altro punto politico di giornata, il racconto di Emanuela Perrone di Luigi Di Maio, che oggi sarà a Tripoli e farà una cosa curiosa, rilancerà l'intesa e i progetti del 2008. Quali erano? Erano quelli che risalivano al governo Berlusconi, dopo la Tunisia, la Libia. Luigi Di Maio oggi atterra a Tripoli per il suo primo viaggio della ripresa. Obiettivo ufficiale: spingere l'accordo per un cessate il fuoco permanente siglato il 22 agosto tra al-Sarraj e tra il capo del Consiglio Presidenziale, il primo ministro al-Sarraj, il presidente del Parlamento di Tobruk, Aguilar Saleh. Il ministro degli esteri incontrerà entrambi e la missione appunto avrà un risvolto economico. Lo scopo è ridare linfa alla vecchia intesa del 2008 tra Berlusconi e Gheddafi, ai tanti progetti in sospeso, a partire, ve la ricordate, l'autostrada costiera libica, quanto se ne parlò all'epoca, e l'aeroporto internazionale di Tripoli, tanto che maliziosamente Il Foglio titola il pezzo: Di Maio sogna il CAV, più business che geopolitica, rilancia l'autostrada appunto di Berlusconi e Gheddafi. Questo ci porta inevitabilmente, perché lo ricorderanno gli ascoltatori più attenti, quell'accordo fu fatto con Gheddafi proprio per provare a gestire la questione dell'immigrazione. Ebbene, la questione dell'immigrazione resta in primo piano e resta un po' sullo sfondo del dibattito politico, anche in vista di un'ipotesi di modifica dei decreti sicurezza. Nel frattempo sembrano essersi placate le cose a Lampedusa, almeno parzialmente, perché il sindaco Martello, che sarà ospite del nostro Alessandro Milan più avanti, e il presidente della regione Musumeci sono stati invitati dal presidente del Consiglio Conte e lo incontreranno nella giornata di domani. Vi voglio segnalare su questo fronte il pezzo della Stampa che ci racconta che c'è un piano del Viminale, una sorta di retroscena sul piano del Viminale per Lampedusa, è firmato da Francesco Grignetti e Fabio Albanese. Siamo a pagina 11 della Stampa. Ci fa sapere in sostanza che il piano del Viminale per Lampedusa, che diventi un porto franco, una sorta di risarcimento per quello che ha dovuto gestire in questi anni in termini di immigrazione, traffico. Mattino. Ed eccoci di nuovo. Molto rapidamente vi vorrei portare su una questione che all'apparenza è complessa, ma è una questione strategica e quindi a mio giudizio va toccata, che è la questione della rete unica. Che cos'è? È il tentativo di creare una rete in fibra ottica unica per tutto il paese che consenta una connettività migliore. Ci consente di andare su internet più veloci. Qua la dico molto semplice, perché così ci capiamo. Qua ci sono stati tutta una serie di ostacoli negli anni, una serie di difficoltà connesse a come è strutturato il sistema italiano e come è strutturato il mercato italiano. Adesso improvvisamente che si è scoperto che internet veloce ci serve, perché abbiamo scoperto appunto le videoconferenze, abbiamo scoperto le videocall, abbiamo scoperto quanto ci può servire in una situazione di isolamento casalingo avere appunto una connessione internet veloce per poterci vedere anche molto semplicemente una serie TV o un film in tutti i paesi. In genere la banda larga è stata spinta esattamente dall'intrattenimento, quindi non c'è nulla di straordinario. Ebbene, il tema è che ieri è arrivato l'accordo tra TIM, tra Telecom Italia e la Cassa Depositi e Prestiti per arrivare a una rete unica entro marzo, il che apre una serie di questioni, una serie di riflessioni, di cui la prima che mi sentirei citarvi è quella di Guido Gentili a pagina 5 del Sole 24 Ore, un editoriale che inizia in prima pagina e che si intitola simbolicamente calcio d'inizio, ora lo Stato non deve rubare la palla. In sostanza dice Gentili che va bene l'intesa, se è un'intesa che appunto serve a portare la banda larga nel paese, a fare di fatto quello di cui abbiamo bisogno. Resta il fatto che si tratta di investimenti di TIM, chiude Gentili, forte della sua maggioranza in un progetto condiviso, fermo arrestando ad esempio il diritto di veto della Cassa Depositi e Prestiti sulle operazioni strategiche, e ferme restando, perché questo è il tema, la neutralità della rete e la necessità di TIM di assicurare adeguati ritorni finanziari ai suoi azionisti. Insomma, è una scommessa senza precedenti, tutta da verificare sul campo nel momento non favorevole in cui un certo statalismo rampante e pervasivo ha ripreso a correre. Ma è altrettanto un fatto che dopo gli anni perduti, cablare l'Italia è diventato un obiettivo realistico e quindi un punto da una parte, un punto dall'altra, cioè con quel filo di preoccupazione per il cosiddetto statalismo rampante del quale ci parla Guido Gentili da una parte e dall'altra parte, insomma, la possibilità di avere finalmente un'Italia cablata. Su questo fronte vi voglio segnalare anche l'intervista che realizza il direttore della Repubblica Maurizio Molinari a pagina 3 con l'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti. Vi do solo il titolo, ma la trovate ovviamente sul quotidiano, ecco la ricetta per un capitalismo paziente che cambi il nostro paese. Puntiamo a completare entro 2 anni una rete veloce in fibra, ma non è banale realizzare l'integrazione. Oh, abbiamo i nostri 6 minuti finali che, vabbè, me li fate dedicare a qualcosa di un po' più leggero. La prima è questa storia pazzesca che ci racconta La Stampa a pagina 14 con Laura Anello da Palermo. Ed è una storia che emerge solo oggi, ma è relativa al periodo del lockdown. Volevano arrivare alla fine del mondo, l'odissea siciliana di 2 terrapiattisti. Quindi l'idea era evidentemente andare a vedere se c'era un bordo del pianeta. Per raccontare questa storia ci vorrebbe un titolo alla linea Vermüller, scrive Laura Anello, terrapiattisti perduti nell'azzurro mare di aprile, perché questa è l'epopea di una coppia di veneziani, un uomo e una donna di mezza età, convinti che il globo somiglia a un vecchio disco di vinile, e partiti in pieno lockdown alla volta della Sicilia per averne definitivamente contezza. Sembra uno scherzo, invece è tutto vero, raccontato dalla viva voce di Salvatore Zichichi, il medico dell'ufficio di sanità marittima del Ministero della Salute, che si è trovato a gestire la vicenda dal suo presidio di Palermo, che di solito si occupa di migranti, mentre i 2 terrapiattisti sbagliavano rotta, rischiavano il naufragio, tentavano la fuga dal periodo di quarantena e finalmente lasciavano la Sicilia con gran sollievo delle autorità marittime e sanitarie. Insomma, ci hanno provato e sono finiti a Ustica. Anche qua andiamo un po' più sul leggero. Ci sono questo dato che viene pubblicato da Libero a pagina 13 con Andrea Cionci, il quale ci racconta che il porno sfascia le famiglie. Il racconto di Cionci è questo, che è una pericolosa assuefazione che dura dall'Ottocento. L'abuso di filmini a luci rosse gioca un ruolo essenziale nel 56% dei divorzi ed è provato che chi li guarda registri cali di desiderio con la partner abituale. Come vedete, lo studio dello psicoterapeuta americano Peter Cleponi su uscire dal tunnel mostra che gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni sono i maggiori fruitori di pornografia online. Vabbè, ci voleva così tanto. Tra l'altro gioca un ruolo appunto nel 56% dei divorzi. Fatemi chiudere con 2 cose. Una cosa sul filo del giornalismo, no, perché una firma della Gazzetta dello Sport che si sposta al quotidiano La Repubblica e si sposta col botto perché arriva con un'intervista a Francesco Totti che farà sicuramente discutere il mondo romanista, ma probabilmente non solo il mondo romanista, perché è un'intervista nella quale, dopo il grande abbandono, Francesco Totti dice abbastanza chiaramente che alla nuova Roma targata Friedkin si potrebbe riavvicinare. Io e la Roma siamo destinati a ritrovarci. Friedkin non farà gli errori di Pallotta. La firma è di Paolo Condò, che, come si diceva, dopo dalla Gazzetta dello Sport si è appena spostato al quotidiano La Repubblica. C'è un docufilm in uscita ad ottobre, quindi Totti parla anche per questo motivo. Mi chiamo Francesco Totti, una scena di fortissimo impatto emotivo. È il 28 maggio 2017, dopo la conclusione della sua ultima partita. Insomma, c'è il racconto di questa scena che è avvenuta al lato dell'ultima partita di Totti, e poi questo racconto: io e la Roma siamo destinati a ritrovarci, Friedkin non farà gli errori di Pallotta. Vedremo come andranno le cose dal lato di Francesco Totti. Vorrei chiudere invece con una riflessione, se mi consentite. Molte tracce trovate sui giornali ancora oggi della vicenda che tanto ha fatto discutere i social, della modella di Gucci, quella che poi si è ritratta su Instagram con il saluto romano, ma soprattutto sulla quale si è discusso per la sua non rispondenza ai canoni estetici. Oggi ci consegna una riflessione non male Michele Serra, che incrocia due elementi, sempre su Repubblica, pagina 26. E i due elementi sono appunto il body shaming, ossia il prendersela con una persona per le sue fattezze fisiche, e l'altra questione è il cosa fare quando emerge il bullismo da social. E dice: troppa importanza per Franti. Chi ricorda il libro Cuore sa che Franti era il bulletto del libro. Dice Serra che tutti noi siamo stati coinvolti in situazioni di questo genere, nella parte della vittima o nella parte del carnefice, nel body shaming da scuola. Ora però quei materiali verbali da branco che si azzuffa escono da cortili e scuole e levitano nell'infinito cielo dei social. Sono diventati l'aria che respiriamo, l'odore del mondo, le polveri sottili che avvolgono ogni casa, ogni città, e ciò che poteva regolarsi al chiuso in una famiglia o in un'aula scolastica o in un giardino costituisce parte considerevole del cosiddetto discorso pubblico. Regolare il crimine non solo è possibile, è anche necessario, ma regolare la meschinità, sanzionare il livore, punire la cafonaggine, tutto quasi il politically correct vive nell'equivoco che virtù e intelligenza siano qualcosa di codificabile, bassezza e stupidità qualcosa di sanzionabile. Ma se si decidesse invece che bassezza e stupidità fanno parte del trascurabile, non sarebbe più educativo? GR24, ci risentiamo tra poco. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.